Sabato 4 marzo Lucio Dalla avrebbe compiuto 80 anni e per festeggiare ripercorriamo un po' il suo percorso artistico e la sua carriera. Musicista, cantautore, scopritore di nuovi talenti. Lucio è stato tutto questo, oltre ad essere un personaggio fondamentale della vita bolognese. Lucio nasce il 4 marzo 1943 ed è uno dei pochi cantautori di cui è facile ricordarsi la data di nascita. Sarà infatti questa canzone a portarlo definitivamente al successo. Ma andiamo per ordine. Dalla nasce come jazzista, impara a suonare il clarinetto come autodidatta ed entra nella Reno Dixieland Band, famoso l'aneddoto secondo il quale un altro membro del gruppo, Pupi Avati, abbia lasciato la formazione una volta resosi conto che Dalla oscurava il suo talento. All'inizio degli anni 60 scrive le sue prime canzoni e nel 1962 entra nei Flippers, dove diventa voce solista, clarinettista e sassofonista. Come cantante inizia a proporre al pubblico i suoi estemporanei gorgheggi sketch. È nel 1963 al Cantagiro che Gino Paoli lo persuade a tentare la carriera da solista, convincendolo ad abbandonare i Flippers. Nel 1964 incide il suo primo 45 giri. Il suo esordio al Cantagiro però è traumatico. Durante le varie esibizioni, Dalla è infatti oggetto di lanci di ortaggi. Senza perdersi d'animo però, nel 1966 forma un proprio gruppo di accompagnamento, composto di musicisti bolognesi, Gli Idoli, ed incide il suo primo album, intitolato 1999. Come già ricordato prima, però, è nel 1971 che arriva il successo definitivo, con il disco Storie di casa mia, contenente la Sanremese 4 marzo 1943. Il successo è anche merito di una costruzione musicale più semplice e immediata, che ha il compito esclusivo di mettere in risalto le storie cantate, secondo il modello dei cantautori Guccini e De André. Gli arrangiamenti sono volutamente ridotti, rimangono sempre discreti e non sovrastano mai la voce del narratore. I testi toccano argomenti di natura sociale che contribuiscono a formare l'identikit del nuovo Lucio Dalla. Nel 1972 è ancora a Sanremo con Piazza Grande, dedicata a un senzatetto realmente vissuto, scritta da Sergio Bardotti e Ron. Divenuta nel tempo un classico della musica italiana, a Sanremo però si piazza solo ottava. Questa pubblicazione segna la fine del primo periodo artistico di Dalla, caratterizzato dalle origini jazzistiche e dall'ascesa verso il successo. Nel 1973 avviene un incontro importantissimo. Lucio fa infatti la conoscenza di Roberto Roversi. Fra i due nascerà un sodalizio breve ma intenso. In 4 anni, infatti, verranno pubblicati ben 3 dischi. L'incontro accentua ancora di più l'impegno politico del musicista, in particolare con l'ultimo dei 3 album, Automobili, pubblicato nel 1976, Dalla riesce ancora una volta ad ottenere un discreto successo. L'allontanamento fra i due si deve al fatto che le musiche dello spettacolo composto insieme Il futuro dell'automobile furono pubblicate in maniera non integrale per volere della casa discografica. Roversi, irritato da questa pubblicazione, abbandonò la collaborazione artistica fra i due. Nel 1977 Lucio Dalla si ritira alle Isole Tremiti per scrivere un album tutto suo. Per la prima volta, infatti, si dedica anche alla stesura dei testi. Pur essendo un musicista puro, dimostra fin dall'inizio una padronanza letteraria solida e matura. Esce così Come è profondo il mare, che prende di mira il concetto di potere, che non avrebbe altro scopo se non quello di uccidere la libertà di pensiero. Il disco verrà visto da molti come un cedere alle esigenze commerciali e anche Roversi lo attaccherà in questo senso. Tuttavia, il periodo che seguirà sarà quello del maggiore successo del cantautore bolognese. A Com'è profondo il mare fanno infatti seguito i progetti Banana Republic, un tour con Francesco De Gregori che per la prima volta porterà il cantautorato negli stadi, il disco Lucio Dalla contenente fra le altre L'anno che verrà e Dalla, il suo primo numero uno nella classifica italiana. Nel 1981 il complesso di Dalla decide di intraprendere una carriera parallela. Nascono così gli Stadio. Tuttavia, la collaborazione continua, anche se nel 1984 Lucio cambia rotta musicale e inizia a collaborare con Mauro Malavasi, che accentua ulteriormente la ritmica degli arrangiamenti dei suoi brani. Torna a collaborare con gli Stadio nel 1985 e nel 1986 partono tutti in tournée per gli Stati Uniti. Il risultato è l'album dal vivo Dall'America Caruso, che contiene anche la traccia Caruso. Il maggiore successo internazionale del cantante, che ha venduto quasi 9 milioni di copie in tutto il mondo ed è oggi considerato un classico della canzone italiana e perfino napoletana. Dalla, infatti, non nasconde mai l'influenza che su di lui ha avuto la canzone classica napoletana e il forte legame con la città di Napoli. Nel 1988 arriva una nuova collaborazione, questa volta con Gianni Morandi. L'album venderà 1 milione di copie e contiene vecchi successi di entrambi i cantautori, con alcuni inediti. Nel 1990 esce Cambio. Il titolo non nasconde il desiderio di Lucio di ridefinire ancora una volta la sua immagine, anche a costo di limitare l'originalità della proposta. Questo nuovo corso sarà confermato per tutti gli anni 90. La definitiva svolta pop arriva nel 1996 con Canzoni, lanciato dal singolo di grande successo Canzone, scritto con Samuele Bersani, uno dei cantautori scoperti dallo stesso Dalla e pubblicato dalla sua etichetta Pressing. Nel 2003 si inoltra nella musica lirica e in scena e compone la sua Tosca, Amore disperato, tratta dal capolavoro di Giacomo Puccini. Negli ultimi anni sono ancora numerose le incursioni nella musica classica, da Prokofiev a Stravinsky, mentre nel 2010 arriva una nuova collaborazione con De Gregori in Work in Progress. L'ultimo disco di studio è del 2009, mentre l'ultima pubblicazione di Dalla risale al 2011. Nel frattempo, il cantante ritorna anche sul palco del Festival di Sanremo, accompagnando il giovane cantautore Pier Davide Carone, duettando con lui e dirigendo l'orchestra. Lucio Dalla muore il 1 marzo 2012 a Montreux, lasciando alla città di Bologna un'importantissima eredità artistica. E molto più di questo. La genuinità nei rapporti con le persone, esemplare il caso di Battiato, suo vicino di casa alle pendici dell'Etna, e le sue frequenti presenze allo stadio di Bologna, sono diventate caratteristiche del suo personaggio, tanto quanto gli occhialetti tondi e il suo zucchetto di lana.